Letture di Radio 24. Da Los Angeles a Francoforte per stanare l'ex nazista che nel 1941 controfirmò la condanna a morte degli ebrei tra Ucraina e Bielorussia. Non è un film, è tutto vero. Mark Gould, di origini ebraiche, si è mimetizzato per 4 anni negli ambienti neonazisti, per poi incontrare e denunciare Bernard Franke, che a 97 anni girava indisturbato per Francoforte. Tuttavia vi sono perplessità sul vero potere di Frank tra i nazisti della Seconda Guerra Mondiale e la storia di Gould potrebbe essere un pretesto per farne un libro e un documentario. C'è voluto un broker di informazioni improvvisatosi storico per riuscire nell'impresa in cui i cacciatori di nazisti avevano finora fallito. Far riaprire le indagini contro Bernard Frank, uno dei più noti gerarchi delle SS ancora in vita. Che l'intraprendente Mark Gould non sia uno storico nel senso classico del termine, balza subito agli occhi. Per le sue ricerche non ha né spulciato negli archivi, né letto decine di libri su Hitler, bensì ha lasciato la sua Los Angeles, si è trasferito in Germania e si è mimetizzato per 4 anni negli ambienti neonazisti. Ha assunto il loro linguaggio, si è tagliato i capelli a zero, ha partecipato alle riunioni dei nostalgici. E alla fine è riuscito a smascherare l'uomo che il 28 luglio del 1941 aveva controfirmato un ordine che condannava a morte gli ebrei delle paludi della Polesia tra l'Ucraina e la Bielorussia. Tra le vittime c'erano anche 28 familiari di Gould, che ha origini ebraiche. Smascherare, in realtà, è un termine relativo. Bernard Frank non si è mai nascosto, perché nessuno l'ha mai incriminato. Oggi ha 97 anni. E gli ultimi decenni li ha passati indisturbato nei pressi di Francoforte, sul Meno. Ha addirittura dato alle stampe 2 libri autobiografici ancora disponibili sugli scaffali virtuali della libreria online Amazon. Nell'ultimo, uscito nel 2004, racconta di quando, nel 1943, fu nominato comandante responsabile della sicurezza del Berghof, la residenza di Hitler sulle Alpi Bavaresi, e come, 2 anni dopo, ricevette l'ordine di uccidere il capo della Luftwaffe, Hermann Göring, colpevole di voler prendere il posto di Hitler. Frank arrestò Göring per alto tradimento, ma gli risparmiò la vita. Dopo la fine della guerra, consegnò senza opporre resistenza il Berghof alle truppe statunitensi e si ritirò a vita privata, lasciando perdere le sue tracce. Almeno fino a quando alla sua porta non ha bussato il 40enne Mark Gould, arrivato a lui in modo rocambolesco. A Los Angeles aveva conosciuto per affari una persona che, tra le altre cose, vendeva anche una bandiera nazista. L'aveva comprata e aveva iniziato a collezionare cimeli legati alla dittatura hitleriana, finché un giorno non decide di rintracciare le persone che avevano arrestato Göring. Si mette in viaggio per la Germania e per 4 anni si infiltra negli ambienti neonazisti. «Sono riuscito a sopportare tutto questo soltanto perché ho escogitato una seconda identità», ha raccontato alla Bild. A un incontro di nostalgia, Gould avvicina per la prima volta Frank, che si fida di lui, decida di incontrarlo decine di volte e un giorno gli scrive anche una lettera. «È lì che ho riconosciuto la firma. Era la stessa che compariva in calce al primo ordine per lo sterminio degli ebrei del 28 luglio del 1941», spiega lo storico improvvisato. «Se le persone sono inferiori dal punto di vista umano o della razza, vanno fucilate tutte», si legge in quell'ordine. A quel punto Gould non regge più la messa in scena e, in un ultimo incontro, elenca a Frank i nomi dei suoi familiari uccisi a seguito di quell'ordine. «Sei un mio amico o un mio nemico?» È la reazione del vecchio gerarca. «Sono un tuo nemico. Tu hai ucciso la mia famiglia», gli risponde Gould, che poi deposita una denuncia davanti alle autorità statunitensi che stanno indagando sul caso, insieme ai colleghi tedeschi. Dalla sua, Gould, che ha sempre ripreso di nascosto i suoi colloqui con Frank, ha un centinaio di ore di registrazioni in cui l'ex gerarca non prende affatto le distanze dall'Olocausto. Anzi, qui tuttavia la storia si complica. Fu davvero Bernard Frank a firmare il primo ordine in assoluto che portò poi all'Olocausto, come sostiene Gould? Il cacciatore di nazisti Efraim Zuroff, direttore del centro Simon Wiesenthal, è scettico. «Non ha alcun dubbio sul fatto che Frank sia stato un fervente nazista», ha spiegato Zuroff nelle scorse settimane, «ma il suo ruolo viene enfatizzato troppo. Il suo nome, ad esempio, non compare nell'ultima lista dei criminali nazisti più ricercati al mondo diffusa dal centro Wiesenthal. Secondo alcuni storici, il suo compito si limitava a verificare che le direttive aderissero linguisticamente all'ideologia nazista. Il che, ha fatto notare Zuroff, non equivale a ordinare uno sterminio. E sulla stampa anglosassone c'è già chi non nasconde i suoi dubbi sui reali motivi del broker trasformatosi in storico. Gould ha già annunciato di voler pubblicare un libro e di voler girare un documentario sulla sua caccia al nazista, che non si era mai nascosto. Avete ascoltato la lettura dell'articolo «Ebreo si finge neonazista per incastrare una SS» di Alessandro Alviani, dalla stampa di mercoledì 23 febbraio. Intuito, passione illuminata e azzardo. Il mondo dell'arte è debitore verso condottieri, capitani d'industria ed ereditieri. Philippe Daverio, sul Corriere della Sera, ci spiega perché. Robert Sterling Clark, classe 1877, era figlio di famiglia. Buona, si intende. Il che per l'America d'allora voleva dire molto ricca. Discendeva per via materna da Isaac Merritt Singer, inventore dell'inventabile ma soprattutto della macchina da cucire, con la quale fece una tale fortuna che a 60 anni, dopo aver avuto 24 figli, se ne andò a vivere in Inghilterra come un lord in pensione. Viveva già a Parigi da 10 anni per evitare la guerra civile americana e aveva optato per l'Inghilterra in modo da evitare i fastidi della guerra franco-prussiana. Sua figlia, Vinaretta, sposò comunque un francese, prima il principe Louis de Chy de Montbéliard, matrimonio immediatamente annullato per consentire il secondo matrimonio col secondo principe, un simpatico sessantenne, gay e melomane, Edmond de Polignac, che ebbe la buona idea di lasciarla presto vedova. Lei divenne la padronessa della musica parigina, da Debussy a Poulenc, passando da Satie a Savigny. Anche Robert Clark, giovin nipote, passò da Parigi prima di laurearsi a Yale. Poi girò l'Oriente, da militare e da esploratore. Ritornò a Parigi e sposò una bella attrice. Assieme iniziarono a collezionare l'antico e il moderno, Piero della Francesca e gli impressionisti. Non andava più di tanto d'accordo coi fratelli, ai quali già lo legava una comune fondazione filantropica. Fece la sua propria fondazione, che oggi è uno dei maggiori musei americani della East Coast, nel Massachusetts. Il primo quadro, un bel Renoir, lo comperò forse ancora da scapolo nel 1916, quando anche Gertrude Stein comperava con passione. Non molto dissimile la sua storia da quella dei coniugi Phillips a Washington. Duncan Phillips, classe 1886, erede di banchieri e magnati dell'acciaio, collezionò negli stessi anni gli stessi impressionisti e la collezione è oggi uno dei gioielli della capitale americana. Tutto dovuto al pensiero di Francis Scott Fitzgerald, per il quale i ricchi americani, quelli d'allora, ben inteso, sono necessariamente intelligenti e belli? Non affatto. Anche il museo Pushkin a Mosca e una parte delle raccolte moderne dell'Hermitage a San Pietroburgo sono debitori d'un collezionismo borghese altrettanto illuminato, quello dei due mercanti imprenditori Sergei Suchokin e Ivan Morozov. Nelle loro case allegre e lussuose, con la Danse di Matisse appesa sugli scaloni, suonava Scriabin. Uguali gli americani e i russi? Separati solo dalla catastrofe rivoluzionaria? Sarebbe errore gravissimo di analisi storica, perché negli stessi anni un umile collezionista di Basilea, Rudolf Stechlin, mise assieme un'analoga collezione, oggi fondazione, e contemporaneamente lo facevano a Winterthur il Barbier Muller, forse ancora con maggior genialità perché mescolarono ai primi Kandinsky le raccolte d'oggetti antropologici, il tutto raccolto oggi a Ginevra, in Rue Jean Calvin. Il fascino discreto della borghesia, alla quale borghesia non erano estranei gli italiani. Se il giovane milanese Riccardo Jucker, svizzero di nonno e tessile come Morozov, se ne andava a Parigi nel 1918 per evitare i guai post-bellici italiani a comperare i quadri cubisti di Picasso, come poco dopo avrebbe fatto De Angeli Frua, anche lui tessile, ma pure patrono della nascita della Galleria del Milione a Milano e di quella di Ernst Beyeler a Basilea, oggi mirabile fondazione. Negli stessi anni il giovane Gianni Mattioli, commerciante tessile, iniziava a Milano una raccolta che oggi è documento formidabile. fece i suoi primi acquisti nel 1916 nelle mostre di Palazzo Cova. È intrigante l'intelligenza artistica del protagonismo storico nei momenti di pulsione della storia. Il giovane generale Bonaparte, non particolarmente affinato ancora quando conquistò 26enne Milano nel 1796, scopre il fascino di Andrea Appiani e da lui si fa ritrarre. Il cardinale Federico Borromeo scopre subito il talento di Caravaggio, che come persona fisica non sembra affatto gradire, e gli acquista la canestra, oggi all'Ambrosiana. Così farà pochi anni dopo il nipote di Papa Paolo V, un innegabile parvenu, il cardinale Scipione Borghese, che capirà tutto del fascino caravaggesco e delle glorie scultoree di Bernini. I ricchi sono intelligenti, intuitivi, premonitori, ma solo talvolta. Oggi appaiono meno arguti e meno acuti, si aspettano i risultati delle aste per tuffarsi negli acquisti di beni artistici già conclamati e cari. Colpa loro o colpa dell'arte attuale? Avete ascoltato la lettura dell'articolo Il fascino bulimico dei collezionisti borghesi di Philippe Daverio, dal Corriere della Sera di martedì 1 marzo.